il silenzio respira in me. Dove andrò? Se mi chiedo cosa accadrà di me, non lo so. Lungo quale rotta io mi trovo mai? Che cosa sono? Che sarò domani? Oh, oh, strana questa vita mia che va. Solo nella notte.